Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Violente tempeste squarciano il cielo, furiosi venti travolgono la terra, i ghiacciai crollano, le acque devastano le coste, numerose specie si estinguono in massa, disastri causati da cambiamenti climatici estremi. Non è una descrizione del presente, è il clima del passato più remoto della Terra, un passato che potrebbe ripetersi. Gli studiosi oggi cercano di comprendere quei fenomeni climatici nella speranza di prevenire future catastrofi ambientali. La comunità scientifica mondiale ritiene che l'attività umana stia portando la Terra verso la catastrofe. I gas serra che emettiamo nell'atmosfera intrappolano in una cappa il calore del pianeta, favorendo l'innalzamento della temperatura. Gli studiosi lanciano l'allarme. Oggi i tentativi di sensibilizzare il mondo sulla questione ambientale vengono premiati, come dimostra l'assegnazione del premio Nobel per la pace del 2007 ad Al Gore e all'IPCC, il foro intergovernativo sul mutamento climatico delle Nazioni Unite. L'IPCC è composto dai maggiori esperti di tutto il mondo. Per capire cosa potrebbe succedere in futuro, gli scienziati tornano indietro nel tempo. Torniamo indietro a 650 milioni di anni fa. La Terra è interamente congelata. Le condizioni climatiche più estreme che il nostro pianeta abbia mai vissuto. Ed è qui che inizia la nostra storia. Il mondo intero è sepolto nel ghiaccio. Una lastra spessa 700 metri si espande dai poli all'equatore, inghiottendo la Terra nella sua morsa. Un pianeta bianco che gli scienziati chiamano Terra a palla di neve. Per sprofondare in questa coltre di ghiaccio, la Terra doveva aver subito un cataclisma devastante. Cosa fu a scatenare questa preistorica ondata di freddo durata 10 milioni di anni? Pianeta Terra, 650 milioni di anni fa. La maggior parte delle terre emerse è distribuita all'altezza dell'equatore. Le temperature miti e le piogge torrenziali provocano una particolare reazione chimica nelle rocce che assorbono anidride carbonica dall'atmosfera. Mano a mano che il livello dei gas serra si abbassa, il pianeta inizia a raffreddarsi. Si innesca una reazione a catena inarrestabile. In un mondo coperto di neve, le lastre di ghiaccio riflettono il calore del sole rimandandolo nello spazio. Il calore viene disperso e la Terra si raffredda. Le temperature si abbassano, si forma altro ghiaccio che respinge ulteriormente la luce. Il pianeta viene inghiottito in un vortice di temperature glaciali. Il ghiaccio ricopre il mondo. Nasce la Terra a palla di neve. Dopo un inverno durato 10 milioni di anni, la Terra a palla di neve formatasi 650 milioni di anni fa arriva alla fine. Violentissime eruzioni sprigionano enormi quantità di gas serra nell'atmosfera. La Terra si riscalda e il ghiaccio inizia a sciogliersi. Nei 400 milioni di anni successivi, le temperature globali aumentano gradualmente. Il clima diventa sufficientemente stabile perché la vita fiorisca. Si sviluppano gli insetti e i rettili. Poi, 250 milioni di anni fa, questa armonia cessa di colpo e inizia il mistero. All'improvviso il mondo diventa più caldo, molto più caldo. I continenti si tramutano in deserti. Il 95% di tutte le specie sulla Terra scompare. Ma cosa fu a scatenare quell'apocalisse? La risposta è in Siberia. Sotto questa terra desolata giace uno strato di migliaia di chilometri quadrati di pietra lavica solidificata, chiamata Trappo Siberiano. La datazione al carbonio ha stabilito che questa vasta provincia ignea si formò 250 milioni di anni fa, contemporaneamente all'estinzione di massa. La lava presente sotto la crosta terrestre iniziò a fuoriuscire dalle crepe e dalle fessure del suolo. Questo tipo di roccia effusiva si chiama basalto fluido. Il meteorologo Alan Robock ci spiega che il basalto fluido è una delle forze più potenti del pianeta. Ci furono delle eruzioni di basalto fluido. La Terra si squarciò e il basalto, una lava molto viscosa, fuoriuscì, inondando centinaia di chilometri quadrati di terreno. La regione era coperta da fontane di lava che eruttavano ovunque. Le eruzioni continuarono per circa 1 milione di anni nei trappi siberiani. Ricoprirono un'area grande 5 volte il Texas e profonda 1500 metri. Perché accadde? La risposta va cercata negli stessi gas serra di cui ci preoccupiamo oggi. Le grandi eruzioni provocano un riscaldamento globale perché una delle principali sostanze che viene rilasciata nell'atmosfera è l'anidride carbonica. In seguito a quell'eruzione le temperature aumentarono di 10 gradi in tutto il mondo, il che significa che la Terra era molto più calda. Quindi il principale responsabile fu l'anidride carbonica. Ma quanta ne fu necessaria per distruggere la vita sulla Terra? Di fronte al costante aumento del livello di gas serra nella nostra atmosfera, questo è ormai un quesito fondamentale. Nel tentativo di svelare il mistero, il dottor Dana Royer studia antiche piante fossili. Le analisi su fossili risalenti a 250 milioni di anni fa rivelano che l'anidride carbonica era in aumento. Nel periodo in cui avvenne l'estinzione di massa, i livelli di CO2 erano 10 volte superiori agli attuali. Dai trappi siberiani si sprigionarono tanti gas serra da coprire tutto il pianeta, oscurando i raggi del sole. I livelli di anidride carbonica aumentarono del 700%. Le temperature globali salirono di 10 gradi. I terribili eventi di questo disastro preistorico ci fanno comprendere l'enorme potere dell'anidride carbonica. Le attività umane potrebbero condurre allo stesso innalzamento dei livelli di CO2 che si verificò durante le estinzioni di massa? Molti esperti ritengono di sì, se non correggiamo il nostro stile di vita. Dopo la devastante ondata di calore di 250 milioni di anni fa, il pianeta inizia lentamente a raffreddarsi. Nascono nuove forme di vita, compaiono i dinosauri. Poi, 55 milioni di anni fa, le temperature raggiungono di nuovo picchi di calore elevatissimi. Il pianeta è di 20 gradi più caldo rispetto ad oggi. Violente eruzioni vulcaniche sprigionano quantità spropositate di gas serra nell'atmosfera. Le temperature si alzano, ma da solo questo fenomeno non basta a creare un clima tropicale. Oggi gli scienziati ritengono di aver trovato la tessera mancante di questo puzzle preistorico nell'oceano al largo di Santa Barbara, in California. Il climatologo Ira Leifer sta monitorando uno strano fenomeno che avviene a poche miglia dalla costa. Bolle di metano che fuoriescono da una profonda falla del fondale oceanico. Questo è un fenomeno analogo a quello che potrebbe essersi verificato nel passato e che potrebbe spiegare alcuni dei cambiamenti che si produssero nell'atmosfera e nel clima. I batteri producono il metano da plancton morto. Una parte di questo si congela diventando idrato di metano. Milioni di tonnellate sono depositate sotto il fondale oceanico, trattenute dall'alta pressione e dall'acqua fredda. L'idrato di metano è solido come il ghiaccio, ma se si riscalda passa direttamente dallo stato solido a quello gassoso, rilasciando il gas fino ad allora trattenuto. Il metano è un gas serra 26 volte più potente dell'anidride carbonica, per cui se ne venissero rilasciate grosse quantità nell'atmosfera, le temperature si alzerebbero sensibilmente. Leifer ritiene che l'intensa attività vulcanica di 55 milioni di anni fa abbia scaldato gli oceani, sciogliendo il metano congelato e liberandolo nell'atmosfera. Oggi il pianeta si sta scaldando ancora e gli scienziati temono che il devastante aumento di temperatura del passato possa ripetersi in futuro. Il biologo Kevin Helmel studia a quale velocità gli oceani si surriscaldano. Attraverso l'analisi dei coralli, lo studioso riesce a rilevare le temperature del passato. I coralli sono formati da milioni di piccole creature marine. Queste forme di vita secernono una sostanza rocciosa chiamata carbonato di calcio. Con il tempo se ne sovrappongono strati su strati. Le temperature dei mari influenzano la velocità della formazione degli strati. Più caldo è l'oceano circostante, più in fretta viene prodotto il carbonato. Migliaia di campioni di corallo dei Caraibi mostrano tutti la stessa allarmante tendenza: una velocità di crescita maggiore. In questa parte del mondo le temperature degli oceani sono senza dubbio in aumento. Ma non sono solo i mari intorno alla Florida a surriscaldarsi. Anche i campioni estratti dalla Grande Barriera Corallina mostrano un aumento della crescita negli ultimi decenni. Questo indica che potrebbe non trattarsi di un evento isolato, ma di un fenomeno esteso a livello globale. Hermon stima che le temperature intorno alla Florida siano aumentate di circa un grado negli ultimi 100 anni. Questo aumento della temperatura fa suonare dei campanelli d'allarme, perché basta un lieve aumento della temperatura delle acque per favorire la fuoriuscita del metano congelato custodito nel fondo degli oceani. Se tutto l'idrato di metano negli oceani dovesse sciogliersi, la nostra atmosfera potrebbe venire annientata dai potenti gas serra. E non è tutto. Il metano è anche un gas altamente infiammabile. Al pari dell'accendere un fiammifero in una stanza piena di gas, un qualsiasi temporale potrebbe infiammare il metano e causare un'enorme esplosione. Le brucianti temperature di 55 milioni di anni fa si mantengono per 200.000 anni. Poi iniziano ad abbassarsi. Si riformano le calotte polari. Per i 40 milioni di anni successivi le temperature oscillano e le lastre di ghiaccio si formano e sciolgono ripetutamente. 125.000 anni fa le lingue di ghiaccio si ritirano. Enormi quantità d'acqua prima trattenute dal ghiaccio si riversano negli oceani. Il livello dei mari si innalza rapidamente. Gli oceani inondano i continenti, travolgono le coste, sommergono intere isole. Gli studiosi stimano che le temperature fossero di 5 gradi più alte di quelle attuali. Ma quale fu la causa del riscaldamento globale e dell'innalzamento degli oceani? Radio Doc. Proseguiamo con la seconda parte del radiodocumentario dedicato ai cambiamenti climatici. Intorno alla metà del 1800, i geologi effettuano una scoperta sensazionale. Le calotte polari si sono formate e sciolte ripetutamente nel corso di 2 milioni di anni, alternando glaciazioni a disgeli. Ma gli scienziati non hanno idea di cosa sia stato a scatenare questo ciclo incessante. Finché nel 1864 James Crowell, uno studioso estraneo all'ambiente accademico, elabora una rivoluzionaria teoria. La causa dei cambiamenti climatici potrebbe non trovarsi sulla Terra, ma nello spazio. Crowell sostiene che la forza di gravità che proviene dal Sole, dalla Luna e dai pianeti influenza l'inclinazione dell'asse terrestre, cambiando la forma dell'orbita disegnata intorno al Sole da circolare a ellittica. Crowell osserva che questi cambiamenti avvengono in cicli regolari che durano migliaia di anni, alterando la quantità di calore che colpisce la Terra. Quando l'orbita terrestre è più ellittica, la Terra è soggetta a temperature più fredde e le lastre di ghiaccio aumentano. Ma l'ambiente accademico rifiuta i suoi studi, che vengono messi nel dimenticatoio. 50 anni dopo, un ingegnere civile serbo riprende in esame i lavori di Crowell. Milutin Milanković verifica tutti i calcoli del suo predecessore e giunge alla conclusione che sono esatti. Milanković si spinge ancora oltre. Aggiunge un parametro temporale di riferimento calcolando che il nostro pianeta cambia la sua orbita intorno al Sole ogni 100.000 anni. Questo spiegherebbe perché la Terra ha sempre oscillato tra periodi estremamente freddi e periodi caldi. Fino a 125.000 anni fa l'orbita terrestre era quasi circolare. Da allora è cambiata ed è diventata ellittica. Questo significa che il pianeta oggi dovrebbe essere più freddo, invece è più caldo. Una forza molto potente influenza il nostro clima. L'attività umana, che aumenta l'emissione di gas serra e favorisce il riscaldamento del nostro pianeta. Oggi la media della temperatura terrestre è aumentata di mezzo grado rispetto al 1900. Il timore è che si possa tornare a raggiungere le stesse temperature di 125.000 anni fa. I 9 gradi in più scioglierebbero abbastanza ghiaccio da far innalzare il livello del mare fino a 6 metri. A che velocità si sta sciogliendo oggi il ghiaccio? Nel marzo 2002, per i climatologi, suona un campanello d'allarme. In Antartide, una lastra di ghiaccio di quasi 520 ettari, chiamata Larsen B, collassa in mare senza preavviso. Eccezionali immagini satellitari scattate dal 1979 al 2003 rivelano quanto ghiaccio si sia sciolto nell'Artico. Nel 2007 gli scienziati guardano sbalorditi il termometro passare dai normali meno 15 a meno 6 gradi. La banchisa è un chiaro indicatore della velocità in cui le lastre ghiacciate sul mare si stiano sciogliendo. Ma il loro scioglimento non causerà l'innalzamento del livello del mare, perché si tratta di ghiaccio formatosi con acque dell'oceano. Per i climatologi, a costituire il pericolo maggiore sono la Groenlandia e l'Antartide. Infatti, il ghiaccio di questi posti si è formato sulla terra, sopra il livello del mare. Con lo scioglimento dei ghiacciai, l'acqua in eccesso inonderebbe gli oceani, aumentando drammaticamente il livello del mare, minacciando le città costiere in tutto il mondo. Il mondo inondato di 125.000 anni fa dura quasi 5.000 anni. Poi, 110.000 anni fa, la Terra precipita in un'era glaciale. I primi esseri umani appaiono sul continente africano. Le piante e gli animali lentamente si adeguano alle più rigide condizioni climatiche. Finché, 11.500 anni fa, le temperature iniziano a risalire e in fretta. La vita deve affrontare un'altra lotta per la sopravvivenza. Le lastre di ghiaccio spesse 1.500 metri che si estendono fino a sud dell'attuale New York iniziano a ritirarsi e la vita viene di nuovo messa alla prova. Le lastre di ghiaccio della Groenlandia si riscaldarono di oltre 10 gradi in soli 10 anni. Per i mammiferi giganti questo significò il disastro e finirono con l'estinguersi. La vittoria va alle specie che sanno adattarsi meglio, gli uomini. La Terra emerge dall'ultima glaciazione. Le oscillazioni climatiche del passato sono terminate e le temperature si stabilizzano. Con condizioni climatiche più miti, gli uomini iniziano a occupare molte regioni del pianeta. Ma 400 anni fa si verifica un evento inaspettato. Le temperature si abbassano di colpo. L'Europa e il Nord America vengono colpite da una tremenda ondata di freddo. Gli artisti immortalano gli strani eventi di quel periodo, che verrà ricordato come piccola era glaciale. Le credenze popolari ascrivono la causa di tali orrori all'ira di Dio. In un certo senso, questa spiegazione è corretta. La causa della piccola era glaciale potrebbe non venire dalla Terra, ma dal cielo. Il Sole. I popoli lo osservano da millenni. Ma si dovrà aspettare un genio per svelare i suoi misteri, un genio di nome Galileo. L'astronomo italiano nel XVII secolo osserva una serie di macchie nere, chiamate macchie solari, sulla superficie del Sole. Un alto numero di macchie solari indica un'attività magnetica intensa. In quelle circostanze il Sole produce maggiore calore, meno macchie corrispondono a minore calore. Fu questa diminuzione dell'attività solare a causare verosimilmente la piccola era glaciale. L'attività magnetica del Sole avviene a cicli. Anche se oggi il clima è più caldo di 400 anni fa, alcuni studiosi prevedono che il Sole prima o poi si raffredderà di nuovo, riducendo la temperatura sulla Terra. Ma questo fenomeno potrebbe bilanciare gli effetti del riscaldamento globale provocato dall'uomo? Gli studiosi hanno già una risposta. Il rapporto del 2007 del Foro Intergovernativo sul Mutamento Climatico indica che anche se il Sole dovesse raffreddarsi, la temperatura della Terra aumenterà da 1,5 a 3 gradi entro la fine del secolo. La Terra continuerebbe ugualmente a riscaldarsi, perché anche l'uomo è diventato una forza della natura. La piccola era glaciale dura quasi 300 anni, fino alla metà del XIX secolo, quando la temperatura globale inizia a risalire. Ma verso la metà del XIX secolo inizia la seconda rivoluzione industriale. Le fornaci a carbone rilasciano anidride carbonica nell'atmosfera. Per la prima volta un'attività umana influisce sul clima del pianeta, facendo aumentare le temperature ben oltre le loro variazioni naturali. Il mondo inizia a subire le conseguenze del riscaldamento globale. Gli uragani si abbattono con forza sempre maggiore sulle città. Le inondazioni improvvise uccidono migliaia di persone. Ma il riscaldamento globale non causa solo lo scioglimento dei ghiacciai e violente tempeste. Quasi 10.000 chilometri a nord delle Ande, in Alaska, il clima più caldo sta favorendo il rilascio del gas serra più potente di tutti. Qui il suolo è formato da terreno congelato, chiamato permafrost. Ma il permafrost si sta sciogliendo con effetti devastanti. In Alaska, costruzioni e palazzi stanno crollando ovunque. Questo disastro locale potrebbe diventare un'emergenza globale. Intrappolate nel permafrost ci sono enormi riserve di gas metano. Con lo scioglimento del terreno, il metano rischia di sprigionarsi e di aumentare ulteriormente la temperatura del pianeta. Se la temperatura mondiale continuasse a salire, verrebbero rilasciate quantità di metano sempre maggiori, si innescherebbe un meccanismo a catena e un innalzamento delle temperature globali. Dal 1970 le medie delle temperature globali sono aumentate di quasi mezzo grado. Apparentemente è solo una piccola variazione, ma gli studiosi hanno dimostrato che è sufficiente per distruggere ghiacciai, sciogliere le calotte polari e assottigliare il permafrost. Se questa tendenza continua, ci ritroveremo di fronte ad un processo inarrestabile. E a differenza delle passate crisi climatiche, la causa del riscaldamento attuale è l'uomo. Nel nostro viaggio attraverso gli ultimi 650 milioni di anni di storia climatica della Terra, abbiamo visto l'ultima glaciazione, la Terra a palla di neve, passando dalle roventi temperature che hanno annientato intere specie fino alla Terra inondata di 125.000 anni fa. Il mutevole passato climatico della Terra mostra che il riscaldamento globale non è una novità per il nostro pianeta. Il nostro clima è sempre stato instabile e ha oscillato tra estremi di caldo e freddo. Ma dai disastri susseguitisi nei millenni abbiamo compreso lo spaventoso potere dei gas serra e una lezione che dovremmo tenere a mente. Oggi il riscaldamento globale è di nuovo causato dai gas serra, prima di tutti l'anidride carbonica. Le emissioni di gas serra, se non controllate, potrebbero trasformarsi in una condanna a morte per gli uomini e le altre specie. Se non rallentiamo le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, se non impariamo dal passato, lasceremo le future generazioni ad un destino incerto. La nostra salvezza è nelle nostre mani. Vi segnaliamo che questo documentario andrà in onda su History Channel domani, lunedì 24 novembre, alle 15.10, col titolo Allarme globale. Un ringraziamento in redazione a Laura Marchesi. Radio Doc vi dà appuntamento a domenica prossima. Buonanotte.